Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Per quello che riguarda il dato congiunturale, oggi arriva un allarme anche dei costruttori italiani. Il 2013 si sta chiudendo peggio del previsto, meno 10% i posti di lavoro dall'inizio della crisi, 500.000 di lavoratori a casa e gli investimenti calati del 7%. Questo mentre continua in Commissione Bilancio la legge, l'analisi oggi è arrivata all'aula della Camera, ha fatto la Commissione di Bilancio della Camera, dicevo, l'analisi della legge di stabilità. E qui, come alcuni di voi hanno notato, perché oggi anche il Sole 24 Ore riportava quello che sembrava essere un dato di fatto ormai, ossia un tetto, la famosa mini TASI, un tetto dell'1 per 1000 al futuro tributo sui servizi indivisibili. In realtà è stato cancellato questo tetto e ha prevalso la versione iniziale con un tetto dell'aliquota al 2,5 per 1000. Altre novità invece confermate: la riduzione del cuneo fiscale, che avrà un fondo dove i soldi saranno ripartiti non solo tra lavoratori e imprese, ma anche tra pensionati, professionisti e piccole aziende, alimentato dalla spending review, dalla lotta all'evasione. Di fatto però, insomma, il fondo, e questo lo fa notare anche oggi il Sole 24 Ore, il fondo è già svuotato perché insomma ci sono altri impegni inderogabili per cui questi soldi sono stati, si chiamano così, impegni inderogabili per cui questi soldi sono stati utilizzati, tra cui la cassa integrazione in deroga, le missioni di pace, il 5 per 1000. Insomma, i soldi già scarseggiano, per non dire che non ci sono più in quel fondo. Vedremo cosa arriverà dalla spending review, dalla lotta all'evasione. E poi eliminato il bollo da 34 euro sui conti correnti fino a 17.000 euro, compensato da un aumento del prelievo per i correntisti che hanno tra i 250 e i 500.000 euro in conto corrente. Rottamazione per le cartelle di Equitalia senza mora né interessi, se il contribuente paga il dovuto in un'unica soluzione entro il 28 febbraio 2014. Il premier Enrico Letta dice: mangeremo il panettone anche l'anno prossimo, e molti non credevano che non saremmo riusciti a mangiarlo nemmeno quest'anno. Però il presidente Confindustria Squinzi dice: non sono ottimista sul lavoro del governo, vedremo e vediamo che cosa uscirà dalla legge di stabilità. Oggi, a margine di un incontro sull'Expo, è ancora in corso, fa notare Squinzi, la presentazione degli emendamenti. Vedremo alla fine quale sarà il risultato finale. Di questo anche ha parlato questa mattina nel nostro programma, quello con Simone Spezia, Effetto Giorno, il ministro allo sviluppo economico Flavio Zanonato. Ha toccato anche il tema dei forconi. E allora facciamo ascoltare Zanonato e poi partiamo con le altre notizie in breve. Rapidamente però prima devo dare un aggiornamento, come sempre, sulla borsa. Meno 1,55% Milano, meno 1% Parigi, meno 0,70% Francoforte, meno 0,50% Londra, meno 0,25% l'America. Tra i titoli che vanno bene oggi, poca roba, ma World Duty Free più 1,90%, Pirelli più 1,20%, Prismian più 0,90%, Diasorin più 0,70%. Fronte opposto, Monte dei Paschi meno 3,20% come Mediaset, CNH meno 2,70% come Ferragamo, il 2,30% lo perde Intesa San Paolo, ma anche Saipem. E il Banco Popolare è nel meno 2,1% come G-Tech, il 2% lo perde Unicredit come Autogrill. E infine Ansaldo STS meno 1,90%. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Allora, il ministro Zanonato questa mattina ha Effetto Giorno sul malessere che si è espresso anche, non solo, ma anche con la cosiddetta protesta dei forconi. È comprensibile che ci sia una protesta, non ha una proposta, perché non si capisce qual è la proposta, e questo è un elemento che andrebbe sottolineato. E vabbè, il malessere esiste, ma come lo traduciamo in fatti positivi, cioè in cambiamenti reali, prima domanda, secondo, attrae, come tutti i mezzi che hanno una dimensione vasta, anche comportamenti che non sono accettati e per i quali bisogna avere una certa fermezza, voglio dire razzismo, antisemitismo, violenza contro queste cose, essere netti. Però in sé io sono anche per provare a ragionare e a dialogare con alcuni di questi, perché indubbiamente partono da un malessere che esiste, non se lo sono mica inventati loro. Allora, così, Ministro Donato, adesso ne parleremo. Per quello che riguarda altre notizie di carattere industriale, va molto bene l'indicatore tedesco ZEV, che misura la fiducia degli investitori tedeschi sulla base delle aspettative dei prossimi sei mesi, è volato a 62 punti a dicembre contro i 54 punti di novembre, nel giorno in cui ufficialmente Angela Merkel è stata rieletta con maggioranza assoluta al Bundestag per il suo terzo mandato da cancelliera. Ha ottenuto 462 voti e ne bastavano 316 su 631 seggi che ha il Parlamento tedesco. Ricordiamo che Angela Merkel è arrivata al suo terzo mandato dopo mesi di trattative, le più lunghe, va detto, dal dopoguerra per la Germania, che hanno portato ad una grande coalizione che dispone tra cristiano democratici e socialdemocratici di 504 seggi. Le agenzie di rating Standard & Poor's, in uno studio sull'area euro, inizia, diciamo, a presentare qualche problema per quello che riguarderà il 2014. Perché lo dico? Perché a me dispiace prendermela ciclicamente con l'agenzia di rating, però obiettivamente io mi chiedo che senso abbia dire nel 2014 è probabile che i tagli ai voti sui debiti sovrani globali siano di nuovo maggiori delle promozioni. Sarà particolarmente vero nell'area euro, dove è prematuro dichiarare che la crisi è finita. Allora, visto che l'impatto che hanno poi queste dichiarazioni, cioè dire che vi saranno tagli al voto sui debiti, e uno va a pensare subito a Italia, Spagna e altri paesi, e sappiamo che un taglio del voto può avere un'incidenza immediata su quello che è il tasso di interesse che uno Stato deve offrire per trovare finanziatori sul suo debito, e quindi spaventa anche gli investitori. Che senso ha dire nel 2014 probabilmente i tagli ai rating, i tagli ai voti saranno nell'area euro maggiori delle promozioni e prematuro dichiarare che la crisi è finita? O fai nomi e cognomi, almeno metti in allarme, o se no questo crea così un senso generale di incertezza, se vuoi anche di panico, con una frase "è probabile", e quindi un bel gufo natalizio col cappello da Babbo Natale se lo becca Standard & Poor's. Tempo però, oggi veniamo a sapere che secondo la Banca Centrale Ellenica la Grecia uscirà dalla recessione nel 2014 per la prima volta dopo sei anni. Una uscita dalla recessione aiutata soprattutto dalle esportazioni e anche da una stabilizzazione dei consumi, anche se la Banca Centrale di Atene sottolinea come sia necessario portare avanti privatizzazioni e programmi di consolidamento. Tra l'altro l'Unione Europea ha dato il via libera per quello che riguarda la Grecia a una nuova tranche di aiuti, perché ha detto sono stati raggiunti gli obiettivi stabiliti con la Troica. Mentre per quello che riguarda un altro paese della cosiddetta Olive Belt, la cintura dell'olio d'oliva, come in maniera un po' sprezzante veniamo chiamati dai paesi del nord Europa, l'Unione Europea, la Commissione Europea starebbe per avviare un'azione disciplinare contro sette squadre di calcio spagnole, tra cui Barcellona e Real Madrid, con l'accusa di possibili aiuti di Stato illegali. Sotto la lente di Bruxelles, infatti, le agevolazioni di cui avrebbe beneficiato sia il Real Madrid, per la costruzione del nuovo stadio, e invece il Barcellona, ma anche altre squadre, l'Atletico Bilbao per esempio, sono accusate di violare le regole europee perché i proprietari hanno beneficiato di trattamenti fiscali favorevoli. Questa sera inizia l'Eurogruppo e domani poi il vertice Ecofin, si discuterà anche e soprattutto di unione bancaria, e oggi il commissario europeo Olli Rehn ha detto che ci sarà alla fine un accordo sull'unione bancaria a livello europeo, quella che porterà le principali banche europee sotto il controllo della Banca Centrale Europea e prevede nuovi meccanismi nel caso di crack, di fallimento di una banca. Da queste centinaia circa di banche che finiranno sotto il controllo della Banca Centrale Europea. Mentre veniamo a sapere che negli ultimi 18 mesi le banche dell'Unione Europea hanno tagliato 800 miliardi di attivo, commisurati ai rischi chiaramente, aumentando il capitale complessivamente di 80 miliardi di euro. Però fa notare sempre l'EBA, che è l'Organizzazione Bancaria Europea, che l'esposizione delle banche italiane verso i titoli di Stato italiani è continuata a salire anche nel 2013, hanno continuato a comprare BOT e BTP le banche italiane per un totale netto di 208 miliardi a giugno contro i 187 miliardi di fine dicembre 2012. Ora, per carità, sono 20 miliardi in più, però magari capiamo anche dove sono finiti alcuni dei soldi che sarebbero dovuti andare alle imprese, perché insomma, se tu continui a aumentare la quota, io capisco che 2 anni fa questo fosse necessario, ma insomma, se tu continui a aumentare di altri 20 miliardi, e parliamo dei 5 principali gruppi italiani, la quota di titoli di Stato che hai, è chiaro che sono soldi che non presti all'economia, diciamocela tutta. Certo, l'ABI, l'associazione delle banche italiane, fa notare che la crisi ha portato alle banche italiane 100 miliardi di sofferenze come conseguenza dell'aumento dei fallimenti delle imprese e della recessione. Il rapporto tra sofferenze e impieghi è al 7,7%, un livello molto molto alto, al massimo del 1999. Però, le banche dicono anche che c'è poca domanda di finanziamento, e avranno in parte sicuramente ragione. Faccio notare che anche oggi l'ABI ha registrato un ulteriore calo dei prestiti delle banche a famiglie e imprese, meno 4%, siamo al peggior dato da 14 anni, e prima o poi anche dal Premier Letta, anche insomma dalle forze politiche, piacerebbe sentire una parola su quello che deve essere il rapporto tra banche, piccole e medie imprese, perché poi soprattutto sulle piccole e medie ci sono problemi, visto che continuiamo a registrare un calo nei prestiti bancari, nonostante le operazioni fatte un anno e mezzo fa da Mario Draghi. Del Lance parleremo più avanti, anche della legge di stabilità. Un'ultima notizia riguarda il mercato dell'auto a livello europeo, più 0,9% a novembre, è praticamente il terzo rialzo consecutivo. Negli 11 mesi comunque, da gennaio a novembre, il mercato dell'auto europeo è sceso di quasi il 3%, i vari paesi hanno fatto meno 2% le matricolazioni in Germania, meno 4% in Francia, meno 4,5% in Italia. In Spagna, dove è in atto una politica anche di incentivi all'acquisto dell'auto e alla rottamazione, più 15%, in Gran Bretagna più 7%. A livello Fiat, invece, a livello europeo, Fiat fa meno 5,8%, sostanzialmente nei primi 11 mesi il gruppo Fiat ha ceduto l'8% come numero di auto immatricolate. Particolarmente male Alfa Romeo, meno 19%, Lancia meno 13,6%, Fiat meno 3,5%. Faccio notare che Volkswagen guadagna il 3,2%, Peugeot Citroën perde solo l'1,2%, Renault fa più 9%, Ford meno 2,9%, Opel meno 3%. Una buona notizia prima di parlare di quello che il Sole 24 Ore ha scoperto sulla regione Sicilia. So che farò venire il mal di stomaco ad alcuni ascoltatori. La buona notizia è, ieri abbiamo raccontato quanto costa la pubblica amministrazione nelle varie voci di spesa con il responsabile del rapporto della UIL. In realtà, scusatemi, non era la pubblica amministrazione, erano i costi della politica, 1.100.000 persone che vivono di politica, e poi anche i costi delle varie assemblee regionali. Sappiamo che sono le regioni, cioè, quelle che drenano più risorse. C'è una buona notizia che riguarda il parco di auto blu dei ministeri e della pubblica amministrazione in generale: è comunque calato del 14,8% in un anno, cioè le vetture a disposizione sono 1.663 contro le 1.951 di un anno prima. Direte non è sufficiente, è comunque una buona cosa. Adesso però, per non entusiasmarsi troppo, parliamo di una regione, anche qui, se la politica avesse coraggio, dovrebbe prendere iniziative non solo nei rapporti banche-imprese, ma anche capire, insomma, che ne è di queste autonomie regionali che stanno diventando per alcune regioni sostanzialmente economia sussidiata, diciamola tutta, dai. Cioè, poi non sono aiuti di Stato perché noi abbiamo le autonomie regionali, però stiamo sussidiando in maniera inefficiente e improduttiva, perché magari questi sussidi servissero a generare occupazione sana, lavoro, produzione industriale. Alcune regioni di questo paese, mi dispiace dirlo, ma quella più eclatante come caso resta a tutti gli effetti la regione Sicilia. 349-238-6666 per i vostri sms e poi la pagina di Focus Economia su Facebook. E da questo punto di vista vi prego anche sui messaggi di aspettare un attimo, perché ne vedremo delle belle, ne abbiamo già parlato altre volte, però un collega del Sole 24 Ore, Fabio Pavesi, ha ripreso in mano un insieme di dati e nonostante le varie dichiarazioni di questi mesi, i conti della Regione Sicilia continuano ad essere oggettivamente inaccettabili. Mentre continuiamo a raccontare anche altre vicende, faccio l'esempio della regione Liguria, in cui la Guardia di Finanza, dopo che ieri la Corte dei Conti ha chiesto a 37 consiglieri su 40 di giustificare spese per 850.000 euro, oggi di nuovo gli uomini della Guardia di Finanza sono andati nel Consiglio regionale della Liguria per acquisire nuovi documenti in relazione alle indagini sulle spese dei gruppi consiliari. Anche il Consiglio regionale della Sardegna è scosso, come raccontiamo da settimane, dallo scandalo dei rimborsi facili. Ieri nuove perquisizioni della Guardia di Finanza, salgono a 64 i consiglieri accusati di aver sfruttato i fondi dei gruppi politici per spese private. Ieri abbiamo raccontato anche questa cosa bellissima, però della Regione Lombardia, di quel consigliere che per tre anni di fila caricava la cena di lavoro il giorno del suo compleanno. Un mito, l'abbiamo definito Stakhanov, neanche nel giorno del compleanno si fermava. E oggi, appunto, dopo il blitz di ieri, gli ultimi accusati in Sardegna sono Giorgio Oppi, leader regionale dell'UDC, Gian Giacomo Sanna, Efisio Planetta, Cristian Solinas, tutti e tre del Partito Sardo d'Azione, accusati del reato di peculato per aver acquistato a scopo personale opere d'arte di pregio e penne di valore con soldi pubblici, mentre Carlo Sanjas del PDL ha riconsegnato al suo partito 25.000 euro per uscire dal carcere, quindi ha ammesso la colpevolezza. Oggi ci occupiamo, dicevo, della Regione Sicilia. Quanto costa il Parlamento regionale siciliano? 160 milioni di euro, un sesto dell'intera spesa di Montecitorio, che ha 630 parlamentari contro i 90 dell'Assemblea siciliana. Però facciamo qualche raffronto. La Lombardia spende, che pure ha un'inchiesta in corso per la precedente giunta regionale, perché non stiamo dicendo che la Lombardia sia vergine e la Sicilia corrotta e basta, però La Lombardia spende 68 milioni di euro e ha 80 consiglieri. Io vorrei capire da Fabio Pavesi come fa la Regione Sicilia a spendere 160 milioni di euro con 80 consiglieri. Fabio, buonasera. Buonasera a te. Ma è diventato il paese di Bengodi, semplicemente. Tu dai dei trattamenti economici ai dipendenti, a quelli che vanno in pensione, ai parlamentari talmente alti che su quei 160 milioni oltre il 90% del bilancio è fatto appunto da compensi ai dipendenti, ai pensionati, ai parlamentari e agli ex parlamentari. Sono cifre da capogiro, perché il raffronto l'abbiamo fatto proprio su Montecitorio, che è la Camera dei Deputati. Tu non puoi spendere 160 milioni di euro quando l'intera Camera spende un miliardo. Tu non puoi spendere tre volte la Lombardia a parità di consiglieri avendo la metà degli abitanti, perché il paradosso è anche questo. Il costo pro capite siciliano è quattro volte la Lombardia, perché la Sicilia ha 4 milioni di abitanti e la Lombardia ne ha 9. Ma anche uno dirà: sono regioni meridionali a statuto speciale, d'accordo, però perché la Puglia spende 44 milioni, è una regione del sud? Anche la Campania ne spende pochi relativamente, sono 60 milioni, quindi il caso siciliano è veramente emblematico. Ovviamente lì qualcuno ha fatto leggi speciali, proprio perché la regione ha quello statuto speciale, però in una regione in cui tu hai 20 miliardi di debiti, tasso di disoccupazione tra i più alti d'Italia, tu hai la casta politica che, anziché, come dire, intraprendere qualche azione di austerità, fa l'esatto contrario. Poi uno dice: a disaffezione. Anche qui Crocetta ha fatto la campagna elettorale dicendo: taglieremo le spese. Il taglio nel 2013 è di soli 10 milioni. Sì, allora, qui l'ha spiegato, però, non per difendere Crocetta, ci mancherebbe, perché da un lato, prima o poi in questo paese bisognerà anche fare una riflessione su il ruolo delle regioni. Se uno prende un grafico del debito pubblico italiano, noi spesso ricordiamo che il debito pubblico italiano è esploso nella gestione degli anni 80 con la coda finale del CAF, Craxi, Andreotti, Forlani, e che quella ripresa degli anni 80 fu una ripresa un po' drogata da un debito che crebbe a dismisura. Quindi noi in realtà ci sentivamo più ricchi, ma è come se tu continui a aumentare appunto il tuo debito in banca e ti senti più ricco. Però c'è una cosa molto emblematica: la spesa, il debito italiano inizia a uscire da ogni controllo nel momento in cui, con la riforma costituzionale, si introducono le regioni. Non subito. Adesso in radio è un po' difficile mostrare dei grafici, però è inesorabile quello che è il grafico dell'aumento del debito pubblico italiano con l'introduzione delle regioni. Non è una spesa solo delle regioni, ma le regioni hanno sostanzialmente duplicato la spesa della pubblica amministrazione all'interno dello Stato. Quindi, dopo la sbornia di federalismo tout court, mentre il federalismo andrebbe fatto come spesa standard sulla sanità, sacrosanto, e dopo che sembrava che solo con le regioni avremmo risolto i problemi di questo paese, forse una riflessione sul fatto che le regioni si siano comportate, non tutte, ma in magna pars, peggio anche dello Stato nazionale, andrebbe fatta, se no continuiamo a recitare slogan. Perché, Fabio Pavesi, è difficilissimo tagliare questo budget mostruoso della Regione Sicilia? Perché se lo autodecidono, cioè non c'è nessuno che può dirgli: voi non fate così, perché di fatto hanno autonomia gestionale, non rispondono praticamente a nessuno se non alla Corte dei Conti regionali, che ogni anno stila il suo bollettino rimproverando i costi eccessivi. Il problema, il paradosso vero di questo paese è che tu col federalismo avresti dovuto abbassare le tasse a livello nazionale e aumentarle a livello locale. È successo, le tasse a livello locale aumentano a dismisura, ma le tasse nazionali non sono mai diminuite, quindi l'effetto per il contribuente è stato, come dicevi tu, doppio. Tu hai duplicato gli organi, hai duplicato le spese e chiaramente hai duplicato la pressione fiscale, l'hai aumentata fortemente. Allora, stando sulle cifre, il 90%, come tu ricordavi, delle spese della Regione Sicilia sono obbligate. Ecco perché è difficile tagliare il budget, perché sono le spese per il personale in servizio e per i pensionati d'oro, che si mangiano metà del bilancio. 87 milioni di euro vanno in stipendi e pensioni. Sì, esattamente. Detto questo, però, dopo il metodo e la pubblicità, vorrei anche che tu ci raccontassi alcune cose che trovano invece una difficile giustificazione. Le spese per attività culturali e cerimonie, le spese per rappresentanza, le spese per la comunicazione e una chicca su tutte: le spese per la caffetteria, sì. La caffetteria, cioè il caffè La Brioche, che non si capisce poi perché un consigliere regionale debba avere come spesa pagata. Pensate che nel budget della regione siciliana le spese per caffetteria valgono 800.000 euro all'anno. Tutti schizzatissimi, li immagino, pieni di cornetti. Meteo, pubblicità, e poi invece c'è poco da ridere, ci racconti altre spese difficilmente giustificabili. Save me. 17:38 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, Fabio Pavesi, ma perché la presidenza del Consiglio della Regione Sicilia, che è già massacrata da 20 miliardi di buco, spende 870.000 euro per attività culturali e cerimonie? E soprattutto vorrei sapere dove va a finire quasi 1 milione di euro in spese per rappresentanza e 1.350.000 euro per la comunicazione. Evidentemente vanno spesso a pranzo, evidentemente comunicano molto, ma soprattutto, altro particolare, non solo il costo ai dipendenti è elevatissimo, ma non contenti, spendono altri 3 milioni per il personale per collaborazioni esterne. Quindi c'è anche un ausilio ulteriore, perché questi 240 dipendenti, cioè ogni deputato ha 3 dipendenti. Alla Camera il rapporto è 1-2, sì. Perché la Regione Sicilia deve avere 3 dipendenti per ogni deputato? Non si capisce. Allora, qualcuno ha fatto uno studio: se noi assumessimo il costo di una regione come la Lombardia o l'Emilia come costo standard, sono 6 euro per abitante per la Lombardia. Ecco, se si spendessero 6 euro per abitante, siamo 60 milioni, le regioni spenderebbero 360 milioni di euro. Sapete quanto spendono le regioni oggi? 1.100 miliardi. Spendono quanto la Camera dei Deputati. Allora, abbiamo fatto le battaglie, i giornali hanno parlato del finanziamento dei partiti, abbiamo riempito pagine e pagine. Quel finanziamento dei partiti vale 90 milioni l'anno. Se si operasse sulle regioni in modo serio e avendo come bench le regioni che spendono meno e funzionano, noi taglieremo 600 milioni di costi a livello regionale. Ecco, non si capisce perché nessuno prende in mano questo tema. Tra l'altro, sul 1 miliardo e quasi 400 mila euro che spende, 1 milione, scusatemi, 400 mila euro che spende la Regione Sicilia nella comunicazione, ci permettiamo di dare un banalissimo consiglio, nel senso che invece che spendere questi soldi ve lo diamo gratis, guardate, così risparmiate almeno 1 milioncino all'anno ed è già qualcosa, oppure lo utilizzate per iniziative vere, non per corsi fasulli di formazione fasulla, dove in realtà che servono solo a chi i corsi li tiene. La miglior comunicazione che potreste fare senza tanti sforzi è raccontarci l'anno prossimo di quanto avete ridotto questo budget, di quanto vi state allineando alle spese delle regioni più virtuose. Quella, un'agenzia su quello costa zero, chiamate l'ANSA, venite qui, ce lo raccontate, abbiamo ridotto del 15% e lo faremo per i prossimi 10 anni le spese della nostra regione. Ecco, questa è la migliore comunicazione, risparmi già 1 milione e sei pure efficace. Crocetta e tutti i pensionati d'oro del Consiglio regionale siciliano, affidatevi al nostro modestissimo giudizio. Grazie a Fabio Pavese del Sole 24 Ore. Grazie a voi. Vedo altri messaggi, l'abbiamo raccontato sul Sole 24 Ore, che praticamente la metà, che qualcuno si lamenta di quello che ho detto sulle regioni italiane, ma scusatemi, la metà delle regioni italiane sono sotto inchiesta per spese gonfiate o truccate. C'è qualcuno che vuole ancora discutere di questo? Su 1.356 tra presidenti, assessori e consiglieri, 280 sono stati indagati solo negli ultimi 3 anni. E le indagini sugli anni precedenti devono essere ancora avviati. Sono 62 in Lombardia, 20 in Friuli, 10 nel Lazio, 13 in Calabria, 53 in Campania, 1 in Puglia ma per appalti, 52 indagati in Piemonte per le spese pazze, 33 consiglieri sardi, vado avanti, 11 consiglieri in Liguria. Ancora dobbiamo discutere, per poi arrivare al famoso consigliere, all'assessore Molisano. Mi fa quasi tenerezza l'assessore Molisano, che è stato beccato in un nightclub romano giustificando con signorine, diciamo, giustificando la cosa per spese di rappresentanza. Rappresentanza di chi? e poi, o relazioni esterne potremmo chiamarle, e poi è quello che andava ad alberghi, champagne, l'assessore della cultura calabrese. E poi anche i 9 capigruppo della Regione Emilia-Romagna di tutti gli schieramenti che devono chiarire le 35.000 voci di spesa costate in Emilia-Romagna 3 milioni di euro in 19 mesi. Ma non ci vogliamo deprimere e andiamo direttamente. Vedo i messaggi che arrivano sulla spesa di rappresentanza nel nightclub romano. Vabbè, non, obiettivamente siamo in fascia protetta, non si possono neanche accennare. Che cosa rappresentasse quel nightclub, quale fosse la rappresentanza. Comunque la borsa, meno 1,60% Milano, meno 1,20% Parigi, meno 0,90% Francoforte, meno 0,40% Londra, meno 0,20% l'America. Non sono sconfortato, è che continuiamo a parlarne, ogni tanto ci vorrebbe anche un'indennità di servizio per raccontare queste cose. Comunque la borsa oggi, borsa sia, con l'euro a 1,37,52, tra l'altro leggera correzione su Moncler che comunque resta su valori altissimi a 14,15 euro, meno 5,50%. Borsa. Ecco, un po' che non facevamo sentire la campanella. Dunque, Leonore Micheli, Radio Corri sulle 24 ore, buonasera. Buonasera. In linea con l'Europa il calo di Milano, da noi pesano di più i bancari, vedo tutti negativi i bancari in Italia, ma ripeto non solo, con il peggior bancario Monte dei Paschi che è il peggiore in assoluto, comunque meno 4,90%, Intesa San Paolo meno 2,5%, Unicredit meno 2,30%, Banco Popolare meno 2,20% e ancora Mediobanca meno 1,80% come la Pop Milano. UbiBanca invece ha chiuso praticamente invariata, lì c'è qualche notizia, voce di mercato, Eleonora? Esatto, in questo caso UBI, anzi fino a poco prima della chiusura le azioni di UBI registravano un buon rialzo, e questo perché si vocifera in borsa che UbiBanca possa scendere e diventare il cavaliere bianco di Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, che non a caso sul finale è salita del 6,5%, ricordiamo che Banca Italia ha chiesto alla Popolare dell'Etruria e del Lazio ulteriori rettifiche sui crediti stimate attorno a 80 milioni, l'istituto quindi si trova in difficoltà e a questo punto si ipotizza che UBI possa scendere in campo, si fanno anche altri nomi come quello del Credem e della Popolare di Vicenza, ma pare che UBI sia la favorita. E quindi ecco perché si muove diversamente dagli altri titoli. Prysmian, oggi pochi titoli che sono andati bene. World Duty Free ha recuperato più 1,70%, Diasorin più 0,70% come Pirelli, Parmalat più 0,70%, Prysmian mezzo punto percentuale di rialzo, e qui anche qui ipotesi e voci. Sì, in questo caso il mercato scommette che la società possa a breve aggiudicarsi delle commesse, in particolare una commessa relativa alla realizzazione della linea di interconnessione Italia-Francia che sta già realizzando Terna, è un investimento per Terna di 400 milioni e proprio ieri l'amministratore delegato di Terna Flavio Cattaneo ha annunciato che nei prossimi mesi partiranno appalti ovviamente ad altre società e quindi Prysmian potrebbe essere in pole position. Ancora tra i titoli, oltre a Monte dei Paschi, Mediaset perde il 3,5%. E vorrei commentare Mediaset in relazione soprattutto al nuovo contratto con la Lega, sì, Calcio, ma anche Fiat, visto che in apertura citavamo i dati sulle immatricolazioni auto europee. Sì, partendo da Fiat è andata meglio del previsto, nel senso che anzi ha chiuso in leggero rialzo e questo quasi spiegabilmente, visto che i dati sulle immatricolazioni europee sono andati abbastanza male, magari si è mossa insieme ad altre società europee che sono andate bene, perché le immatricolazioni in Europa sono salite di oltre l'1% nella zona euro, mentre nel caso di Fiat nel mese di novembre sono calate del 5,8%. Per quanto riguarda Mediaset, meno 3,5%, visto che gli analisti hanno iniziato a fare ipotesi su quanto pagherà la società per i diritti televisivi. Fino a ieri si scommetteva che la somma pagata fosse inferiore a quella degli anni passati, attorno a 270 milioni, invece è emerso ieri che la Lega Calcio ha siglato un accordo con Infront, la società che gestirà la cessione dei diritti televisivi. brevi, per mettendo nero su bianco, diciamo, delle condizioni in linea con quelle degli anni passati, che quindi fanno presupporre che non si procederà a nessuno sconto. Poi su MPS è stato uno dei peggior titoli, come hai detto tu, ha perso quasi il 5%, ma lì si sa, c'è un grosso punto interrogativo su cosa succederà all'assemblea del 27 di dicembre, con la fondazione e la banca che sono, diciamo, su posizioni, per la prima volta nella storia probabilmente, su posizioni antitetiche tra loro, con la fondazione che vuole l'aumento di capitale nel secondo trimestre 2014 e la banca che lo vuole effettuare subito a gennaio. Adesso il traffico e poi gli altri titoli. C'è un ascoltatore che scrive: secondo me fa più danni alla politica focus economia che i blocchi dei furgoni. Diciamo, sono due approcci un po' diversi. Noi non vogliamo far danni alla politica, siamo costretti a occuparci dei costi della politica anche locale, perché nel momento in cui non si riescono a reperire risorse praticamente per niente, vedere che c'è chi continua a banchettare sul Titanic un po' ce le fa girare le valutazioni su queste cose. Traffico. Allora, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni e Leonora Micheli. Altri titoli, dicevo, oggi sul commento di borsa. Di Fiat abbiamo detto, Mediaset, ma anche Ansaldo e Moncler. Sì, Ansaldo oggi ha risentito dell'annuncio del taglio del portafoglio ordine, questo dopo che si è aperto un contenzioso su contratti in Libia. Per quanto riguarda invece Moncler, le quotazioni si sono sgonfiate, come hai detto più tu in avvio di collegamento, ma era da mettere in conto dopo la volata di oltre il 46% registrata ieri, -5,48, ma i prezzi si attestano a 14,15 euro, quindi la società continua a essere valutata circa 37 volte gli utili attesi per quest'anno, indubbiamente tanto rispetto anche ad altre società della moda. Ecco, tu che di moda ti occupi, insomma, ma io oggi non ho visto, ma non che li voglia, lo dico tranquillamente, l'ho detto anche ieri, siamo contenti quando una debuttante fa il botto che ha fatto Moncler ieri. 37 volte gli utili, non ci capisco nulla del settore moda, è tantino in generale, un gruppo normalmente quota 12, 15, 20 volte gli utili attesi. Non ho visto però oggi preoccupazioni da parte degli analisti, no? No, non ci sono particolari preoccupazioni. Bene. Mi ero letta anche dei report dove semmai si puntava l'indice sul fatto che la società non è proprio made in Italy, cioè nel senso sì, al di là che è un marchio francese, ma il grosso della produzione viene fatto nell'est Europa, in Italia viene realizzato solo, diciamo, le gamme di punta della società del Piumino. E d'altra parte va detto che sono molto bravi, sono cresciuti a un tasso di crescita annuo dal 2003, da quando si è insediato Ruffini, a quest'anno del 32% l'anno a livello di fatturato, hanno un EBITDA margin, cioè margine quello che rimane dopo i costi, superiore al 30%, quindi è molto consistente e evidentemente il mercato scommette che la società continui a crescere a questi ritmi di crescita, anzi c'è il piano industriale prevede proprio la conquista di nuovi mercati come il Canada, dove sono poco presenti, la Cina e altri mercati, evidentemente gli investitori ci credono. Ancora no, siamo contenti, ci mancherebbe. Oggi per il settore moda molto bene Pquadro, +7,60%, sto citando i migliori e peggiori in assoluto, Kinexia, l'ex Schiaparelli +15,35% e appunto la Banca Popolare dell'Etruria che tu citavi +6,50%, fronte opposto oltre a Moncler, KR Energy -7,35% e poi Ratti -4,90%. Una battuta ancora, se ce la facciamo, rapidissimi, su Telecom. Sì, Telecom ovviamente si scaldano i motori per l'assemblea di questo venerdì, dove non è dato sapere che cosa succederà. L'unica certezza è che si presenterà oltre il 53% del capitale. Ricordiamo che il socio di riferimento ha poco più del 22%. L'assemblea è chiamata a revocare l'attuale consiglio di amministrazione su richiesta dell'azionista Fossati, che è al 5%. È tutto da vedere venerdì in assemblea. Grazie, grazie alla nonna Michele, Radio Colli, Sole 24 Ore. Dopo il GR parleremo invece del dato sul mondo delle costruzioni e le modifiche alla legge di stabilità. C'è chi risponde alla mia battuta sul Titanic dicendo: ma loro non si preoccupano perché tanto dal Titanic possono scendere mentre noi no. No, attenzione, la storia è un po' diversa. C'è un momento in cui poi un'intera classe politica che non è capace di riformarsi viene spazzata via. Io spero veramente che questo momento non arrivi, perché poi non è mai bello avere tagli e movimenti così drastici. Però noi continueremo a raccontare come usano i nostri soldi le regioni. Adesso il GR. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia. Adesso ci occupiamo della legge di stabilità, degli emendamenti in corso che hanno modificato anche alcune cose che sembravano certe, e poi però in primo luogo, scusatemi, di un allarme che arriva dal mondo degli industriali del settore immobiliare, dall'ANCE. Il consuntivo sul 2013 dei costruttori dell'edilizia è di nuovo obiettivamente molto pesante. Sulle spese delle regioni ha ragione l'ascoltatore. Adesso, a noi non piace il luogo comune o seguire i luoghi comuni. Abbiamo visto una campagna elettorale alle ultime elezioni tutta giocata contro le province, che per carità, dopodiché ovviamente non se n'è fatto nulla, no? Anche nei partiti che l'avevano cavalcata. Però attenzione, perché questo è un programma che si occupa di numeri, sperando di non dare i numeri. Il costo delle province è decisamente inferiore al costo che hanno le regioni italiane, perché il costo di funzionamento nel 2012, il dato ultimo è quello, delle province italiane è di 434 milioni. Il costo delle regioni italiane è stato di 1 miliardo e 160 milioni. Questo non vuol dire che si debbano tenere tutte le province, ma vuol dire che se vogliamo evitare così le frasi da campagna elettorale, gli slogan, forse è più importante portare tutte le regioni di questo cavolo di paese al livello standard dei costi che hanno Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, che oscillano, quindi sono regioni, diciamo, di centrodestra, centrosinistra, cambia poco, tra i 6,3 e i 7,7 euro per abitante. E mentre abbiamo le regioni del sud, alcune, Sicilia ma non solo, che volano a cifre di 40 euro, la Val d'Aosta, così vediamo che non è un problema solo del nord, 130 euro per abitante. Forse è più importante avere dei costi standard per tutte le regioni che iniziare una battaglia sulle province, che per carità alcune andranno accorpate, non si è capito perché siano state create, ma insomma di fatto da lì hai meno ciccia da mangiare, da grattare rispetto alle regioni italiane. Si può dire questo, oppure il potere dei governatori è così forte che non si possono mai toccare le regioni? Chiedo. Sì, poi molti mi scrivono anche del comune di Catania salvato, ma vabbè ragazzi, però cioè, poi esiste anche il voto. Il comune di Catania è stato salvato contro ogni idea di federalismo, e devo dire che lì votò a favore anche la Lega, e non se ne abbia Matteo Salvini, che è un amico. Ma insomma dico, no, votò fuori anche la Lega. Allora un po' di coerenza su questo. Ultima nota, c'è chi scrive che, visto che ho fatto l'esempio del Titanic, dovremmo parlare di Titalic. Non è male, non so se sia già stata usata, ma non è male. Presidente dell'ANCE Paolo Buzzetti. L'ANCE raggruppa 20.000 imprese del settore dell'edilizia. Buonasera. Buonasera a lei, buonasera a tutti. Allora, quanto a Titalic ci siamo, nel senso che voi segnalate che anche il 2013, che già avevate previsto essere un anno Molto, molto difficile. Si è chiuso addirittura peggio, meno 7% degli investimenti. E con un'occupazione a questo punto nell'edilizia che ha perso quasi 500.000 di persone dall'inizio della crisi e 12.000 imprese fallite, una su quattro. Allora, alcuni diranno che era un settore che era cresciuto tanto e forse troppo un po' in bolla, però insomma ormai le cifre sono troppo pesanti anche per essere giustificate da un settore che molto era corso dall'inizio anni 2000. A che cosa attribuite questo andamento peggiore delle attese? Beh, purtroppo ci dispiace fare le cassandre, ma sì, siamo alla deindustrializzazione. Beh, è dovuto al fatto che siamo l'unico paese industriale che non sta usando l'edilizia come fattore di riaccensione dei motori del mercato interno. Le sole esportazioni non bastano, tutto dipende assolutamente soltanto dalla ripresa del settore, appunto, e non lo stiamo facendo perché c'è stata la politica, appunto, depressiva determinata dal problema della casa e dalla stretta creditizia. Consideriamo che sono 76 miliardi in meno dal 2007 che sono stati erogati alle famiglie, per esempio, per i mutui relativi alla casa, ristrutturazione, acquisti che sia. E poi la grande contrazione della spesa corrente dovuta al patto di stabilità interno, intendo dire, adesso lasciamo per un secondo da parte l'Europa, problema interno di patto di stabilità imposto agli enti locali. Tanto è vero che gli scenari sono due: o continuiamo in questa depressione che ci porterà purtroppo alla deindustrializzazione totale a breve e la massa di sofferenze delle banche, in ragione anche del 50-53% dipende dalle leve aperte con l'edilizia, quindi se salteranno imprese purtroppo salteranno anche molte banche. Rispetto a questo scenario catastrofico possibile, ne esiste un altro di inizio della ripresa agganciandosi alla ripresa generale, ma richiede quello che sul quale noi insistiamo, cioè un allentamento del patto di stabilità interno. È un fatto tutto italiano, lo voglio sottolineare, ci sono 5 miliardi che potrebbero essere utilizzati già nel corso dell'anno prossimo, tutti quanti dettagliatamente indirizzati per esempio a un programma guidato dal centro e dal governo sul dissesto idrogeologico, manutenzione del paese e scuole. Già questo darebbe un grande segnale di reazione e potrebbe portare 85.000 posti di lavoro, 17 miliardi. L'altro grande elemento è che il governo ha fatto firmare un accordo Cassa Depositi e Prestiti ABI, era una nostra vecchia proposta, ma merito bene che è stata accettata, per innescare un meccanismo di finanziamento di Cassa Depositi e Prestiti fino a 5 miliardi alle banche, affinché diano mutui alle famiglie a tassi e condizioni antecrisi per ritornare a far riaccendere un pochino quella fisiologicità del mercato della casa così importante, sì, per i moltiplicatori che porta. Questi due elementi noi siamo convinti che porterebbero molti milioni, in questo secondo caso molti miliardi, pardon, circa dagli 8 ai 12 miliardi di giro d'affari, e rimetterebbero in moto l'occupazione per altri 100 e rotti mila posti di lavoro. Insomma, il 2014 potrebbe avere la spinta ai motori della nave Italia per agganciare, per portarsi in una zona vento positivo del resto d'Europa. La differenza è nella volontà di fare questa manovra, una già pronta, quella da Cassa Depositi e Prestiti e banche sui mutui, l'altra da impostare su questo patto di stabilità interno e questi 5 miliardi nel fare cose utili. Ecco, mi dica una cosa, perché lei citava anche il rapporto con le banche. Proprio oggi l'ABI fa notare, anzi non solo l'ABI, però insomma, che i prestiti delle banche alle famiglie e imprese hanno subito il calo più forte dal giugno del 1999, meno 4%. Però, Buzzetti, lei qualche proposta la stava avanzando, ma per concludere, se lei dovesse suggerire al Premier Letta o ai futuri candidati di una campagna elettorale che vedremo quando sarà, Letta oggi ha detto che mangerà il panettone anche il prossimo anno, noi glielo auguriamo in generale, come lo auguriamo tutti di mangiare il panettone, però alcuni italiani avranno più difficoltà anche questo Natale, se posso permettermi la battuta. Però dico, la proposta qual è? Chiedere, perché l'Europa ti blocca qualunque cosa, lo scontro, l'abbiamo già raccontato, non passerà, abbiamo parlato anche con il Premier europeo Barroso, una linea per cui gli investimenti, le infrastrutture possono essere conteggiati in un deficit buono rispetto a un deficit cattivo, che è quello per le spese correnti e per altre metà. Cioè, dove le va a trovare le risorse il governo, visto che adesso parleremo di legge di stabilità? Già le risorse per il cuneo fiscale sono sparite, come scriveva oggi il Sole 24 Ore, il fondo è già vuoto di fatto, perché ha dovuto dare i soldi anche per la cassa integrazione in deroga, missioni di pace, 5 per 1000. Che proposta fa lei a Letta? E alle banche, anche se vuole. Allora, lei ha ragione perfettamente, poi tante volte ha detto queste cose anche in passato, il problema è tutto lì. C'è la necessità innanzitutto di andare, ma questo voglio dire, fa parte della possibilità e capacità di rappresentare all'Europa che questa linea politica di austerità si è dimostrata, ormai abbiamo 5 anni di esperienza di crisi, decisamente negativa, perché produce una deindustrializzazione. Noi sono state comprate 472 aziende industriali di ottimo livello, quindi rischiamo una deindustrializzazione che poi impoverirà il paese, mentre invece la possibilità, noi siamo stati più virtuosi. In grandissima sintesi voglio dire che siamo i primi che siamo tornati, anche per la cura da cavallo che abbiamo fatto, contro la febbre da cavallo che abbiamo fatto, abbiamo ottenuto cose importanti, cioè siamo ritornati entro il 3% del deficit per primi in 3 anni. Ci sono paesi come la Francia, l'Inghilterra, il Portogallo, la Spagna, che stanno fuori con l'accuso, e sono 7 anni che stanno sforando. Se andiamo a considerare il debito pubblico, non è cresciuto più degli altri paesi, il rapporto debito pubblico col debito privato delle famiglie e tra i migliori in Europa. Insomma, siamo i primi della classe. Sarebbe giusto adesso andare, senza pensare, diciamo, a un'azione de gasperiana del dopoguerra, andare a dire: scusate, fateci portare almeno fuori da questo deficit le spese che naturalmente dimostriamo siano correttamente indirizzate verso cose utili. Nel frattempo cominciamo a ridurre la spesa corrente, ovviamente, che quello lo dobbiamo fare. Però io volevo dire che al di là di questo fatto è necessario anche fare delle scelte un po' decise all'interno delle poche risorse che abbiamo. E come lei diceva giustamente, da una parte la cassa integrazione, sì, dalla parte il problema della casa, dall'altra parte bisogna un po' indirizzare le cose in un senso sicuro. A me sembra che il senso sicuro, non lo dico per le costruzioni, sia quello di far ripartire l'edilizia. Per esempio, se finisce il balletto sulla tassazione sulla casa e riusciamo a sapere un valore purtroppo deciso, che ci dica nei prossimi 3 anni quanto si paga realmente, questo dà un altro elemento di equilibrio, sì, ad esempio. Allora, guardi, sono due cose a mio avviso diverse nel ringraziare la Presidente dell'ANCI, perché da un lato lei ha ragione, il balletto l'abbiamo raccontato anche noi, ci ha già raggiunto in studio Gianni Trovati, quindi la gente inizia a usare gesti scaramantici in macchina, perché ogni volta che parla Trovati sono dolori. Però il balletto sull'IMU seconda, IMU prima, seconda rata IMU, TASI, TARES, MUSO, PAGA, allora l'abbiamo già raccontato, ed è vero che c'è un po' di incertezza. Io temo che però il problema dei lavori pubblici non sia tanto nell'edilizia privata in questo momento, ma sia proprio nei grandi lavori pubblici. Lei ha ragione, perché da sempre la storia economica ti insegna, dal 29 in poi, che investire in lavori pubblici, in infrastrutturali veri, non finti, ha una ricaduta immediata nel far ripartire l'economia, perché l'edilizia ha questa caratteristica di redistribuire subito sul territorio i soldi che ottiene. Non mi sembra che, finché non vi sarà, vedremo come andrà domani l'Eurogruppo e l'Ecofin, l'Eurogruppo stasera, mi sembra che da questo punto di vista sarà un altro anno in cui soffrirete sul fronte degli investimenti, soprattutto di carattere pubblico, a meno che veramente non ci sia una svolta nei rapporti con l'Europa e una nuova Angela Merkel non molli un po' il colpo. Per ora non ne vediamo segnali. Grazie al Presidente dell'ANCE, in bocca al lupo comunque a tutti i suoi associati. Traffico. Allora, ultima parte di Focus Economia. Dicevo che ci ha raggiunto in studio Gianni Trovati, la legge di stabilità. Allora, si lavora a notte tempore, alacremente, si modificano cose che sembravano già invece date di fatto. Oggi Sole 24 Ore apre dicendo, in senso buono, per fortuna è arrivata la mini TASI, ci sarà un tetto dell'1 per 1000 al futuro tributo sui servizi indivisibili, quello che da 2014 comporrà la IUC assieme alla Tari sui rifiuti e l'IMU residua, già sto male, paga Musso e Tasi, e in realtà invece è già sparito il tetto dell'1 per 1000 e torniamo all'aliquota al 2,5 per 1000. Altre novità negli emendamenti, Gianni, buonasera. Buonasera a voi, sì. Eliminato il bollo del 34. No, una cosa importante, poi ti lascio parlare, mi interessava la rottamata, che ce lo chiedono molti ascoltatori, la rottamazione delle cartelle di Equitalia. Sì, allora, in sintesi, sulla Tasi siamo tornati al punto di prima, cioè il 2,5 per 1000 come tetto massimo, che sarà verosimilmente, se non cambiano le cose, applicato in molti comuni, perché la Tasi ha un problema sugli altri immobili, non c'è come dire, leva fiscale sugli altri immobili e quindi si scaricherà molto dello sforzo fiscale sulla prima casa, con il risultato che si rischierà in moltissimi casi di pagare tanto o più di quanto si pagava di IMU nel 2012. È un problema segnalato al Sole 24 Ore da settimane, e proprio l'inserimento del tetto dell'1 per 1000 vuol dire che anche maggioranza e governo avevano capito che il problema c'era. Però naturalmente non si riducono le tasse scrivendo una riga in un comma, ma bisogna creare le condizioni. Questo avrebbe fatto saltare i bilanci di tutti i comuni e quindi è stato ritirato. Sulle altre novità, come dicevi, si lavora un po' con il passo del gambero, nel senso che i tempi si stanno allungando e la novità è sostanzialmente legata all'approvazione di questo fondo sul taglio delle tasse, che però è un fondo praticamente semivuoto. Sì, ecco, un fondo semivuoto, lo citavo oggi sulle 24 ore, ripercorriamo la vicenda. Il governo ha stabilito che ci deve essere un fondo per dove confluiranno i soldi della lotta all'evasione fiscale e quelli della spending review, i primi risparmi di Cottarelli della spending review, che tutti questi soldi avrebbe dovuto utilizzare per ridurre il cuneo fiscale. Questa era la promessa. Le tasse in busta paga. Dopodiché da lì si sono aggiunti, no, non solo il cuneo fiscale, ma anche i pensionati, i professionisti, le piccole aziende. Non ho problemi, però sono sempre più voci. Perché dite che il fondo è di fatto già svuotato? Ma la sostanza è: questo fondo andrà a ridurre la pressione fiscale, quindi il cuneo fiscale sui lavoratori e sulle imprese, solo per la parte che non servirà a tutto il resto. Questo è un po' il quadro della situazione. Si diceva che i risparmi della spending review dovessero andare automaticamente a ridurre il peso del cuneo fiscale. Invece nella norma si dice che risparmi ulteriori rispetto a quelli già preventivati, e quindi vuol dire sostanzialmente nulla. In più si dice: le risorse che ci saranno solo quando avremo onorato, diciamo così, gli altri impegni inderogabili. Si citava appunto le missioni internazionali, il 5 per 1000 e le altre cose messe già a bilancio. In pratica non è più un fondo antitasse, è un fondo che diventa antitasse solo per la parte, immaginiamo molto piccola, residua rispetto alle dinamiche di finanza pubblica che già erano state previste prima, allora, del fondo. Io capisco le difficoltà del governo, capisco che deve tenere assieme tante cose, però diciamola tutta, questa legge di stabilità è una legge di mantenimento, potremmo chiamarla così, di manutenzione ordinaria, che riporta il saldo dove vuole l'Europa. Con appunto quel movimento sull'IMU per i comuni, per quelli che hanno aumentato l'aliquota nella parte massima, vabbè. Quello che dico da un punto di vista è che questo sia un giudizio politico, l'effetto shock, o meglio l'effetto scossone, non usiamo il termine shock, è del tutto assente, ma non ce l'ho con Premier Letta, ma così come la riforma sui costi della politica è completamente anacquata dai tempi e dai modi, perché va a toccare solo una parte, non tutto. L'effetto scossone qua non c'è. Io, insomma, in 13 anni che conduciamo questi programmi abbiamo fatto 13 leggi finanziarie, commentato. Non c'è, è ordinaria manutenzione, tenendo assieme, cercando di... Sì, poi ci sono delle iniziative, ho capito, per i giovani, ma tutta roba che si perde. L'effetto scossone vero e proprio, c'è cioè un'iniziativa forte o sul cuneo fiscale o sugli investimenti o sul mandare a quel paese l'Europa puntando i piedi, non c'è. Allora, diciamo, cioè, uno può anche dire che in maniera democristiana puntiamo a galleggiare, a continuare così, in attesa che la ripresa ci sia, che magari sia più forte di quello che stimano gli organismi internazionali. Però altro non vedo. Quando dovremmo mettere la parola a fine, Gianni, per concludere sulla legge di stabilità? Ma a questo punto tendenzialmente giovedì, con il maxi emendamento in aula su cui il governo porrà la fiducia, e a quel punto poi il terzo passaggio, quello al Senato, sarà solo, come dire, un passaggio formale per andare poi a chiudere prima di Natale. E allora vediamo se nella serata di oggi, domani i nostri GR ve ne daranno come sempre conto, vi sarà emergerà qualche altra novità attraverso gli emendamenti. Intanto grazie a Gianni Trovati, grazie a Sebastiano voi. Barisoni, l'auguro di una buona serata. Noi ci risentiamo domani, comunque vada, dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.